Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Imprenditoria oggi in primo piano, per la precisione la giovane imprenditoria oltremanica, con un occhio ovviamente ai fantasmi generati dalla Brexit. Anche questo primo sabato del mese tornano le nostre rubriche Controsudati, che porta on air le storie di chi rientra in Italia, in questo caso dall'Olanda, e attenzione, anche in questo caso per fare startup. E ci sarà anche l'ideogramma, spazio per chi sogna la Cina. Vi forniremo spunti assolutamente pratici su come entrare nel mercato del lavoro cinese. Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright del fondatore di Talent Garden, Davide Dattoli. Nel nostro paese sono ancora pochi i giovani occupati nel settore digitale, appena il 12% rispetto al 16% della media europea. Le loro competenze non rispondono alle richieste del mercato, dice Dattoli. Se la Commissione europea calcola che entro il 2020 ci saranno 900.000 posti di lavoro non occupati per mancanza di competenze digitali, l'Italia ha la più bassa percentuale di addetti del mondo ICT che hanno almeno una laurea triennale. Gli occupati del settore qui sono mediamente più vecchi di quasi tutti gli altri paesi europei, aggiunge. Sono parole su cui riflettere. Forse occorre fare uno sforzo in più, tutti, per incanalare meglio il nostro potenziale di capitale umano? Anche perché nella penisola le capacità che vanno perse a causa dei neti, giovani nativi under 30, rappresentano ben l'1,4% del PIL, quanto riferisce l'OCSE. Il dato italiano è il terzo peggiore dopo Grecia e Turchia. Sempre per l'OCSE, in Italia la proporzione di giovani nativi è aumentata considerevolmente durante la crisi. Prima del 2007 era attorno al 20%, in 7 anni è cresciuta di 7 punti. Quel che più lascia perplessi è che la maggioranza dei giovani non cerca nemmeno impiego. Le donne, tra l'altro, sono la parte preponderante tra i net. La prossima settimana vi offriremo un approfondimento sul tema a seguito del recentissimo convegno sui giovani inattivi all'Università Cattolica di Milano. E fortunatamente l'equazione giovane uguale inattivo non è sempre vera. Ci sono tanti giovani italiani che stanno realizzando progetti importanti anche all'estero. Stagista, project manager in meno di 12 mesi, non è già straniero, italiano, appena arrivato a Londra. Questo per me è meritocrazia. Simone Luciani, 33 anni, è un imprenditore in Gran Bretagna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. Importanti novità, fate bene attenzione con la nuova legge di bilancio in merito agli incentivi per il rientro dei talenti, incentivi che diventano stabili e vengono estesi e rafforzati. Due sono i fronti, il primo riguarda i professionisti. Nell'ultimo testo della manovra si estende al 50% l'esenzione dalle tasse per i lavoratori altamente qualificati che tornano nella penisola dopo almeno 5 anni all'estero. Il beneficio ha durata quinquennale ed è stato esteso anche agli autonomi. Finora a beneficiarne sono stati 4.000 connazionali rimpatriati. Il secondo fronte riguarda i ricercatori. Si elimina, attenzione, la scadenza dello sconto per i cervelli, che rimane al 90% del reddito per un triennio. La misura introdotta nel 2011 aveva una durata di 7 anni, durata ora cancellata. Finora a beneficiarne sono stati 2.000 scienziati. Per il ministro dell'economia Padoan, riportare in Italia il capitale umano degli italiani che lavorano all'estero, spesso con grande successo, una priorità del governo. Il tutto mentre a settembre il tasso di disoccupazione giovanile è stato pari al 37,1%, in calo di 1,2 punti rispetto ad agosto. Torna la nostra rubrica Controesodati. Vi raccontiamo oggi la storia di Paolo Guizzo, 43 anni, rientrato dall'Olanda per fondare una propria startup e avviare un progetto imprenditoriale. La rubrica è realizzata in collaborazione con Alessia Marsigaglia dell'Associazione Italents, dal cui network attingiamo le storie che vi raccontiamo per info italents.org. Ascoltiamo ora la storia di Paolo partendo dall'espatrio in Olanda. Mi sono proprio innamorato dell'Olanda nel 99, quando ho partecipato a un progetto della Comunità Europea, il progetto Leonardo. Ho fatto uno stage di 3 mesi, dopodiché sono ritornato in Italia, però avevo sempre nella testa il pallino per l'Olanda. E quindi poi nel 2008 ho deciso di partire, lasciare tutto nel giro di una settimana. Mi sono trasferito lì fino a marzo del 2016, quindi ho fatto 7 anni e 4 mesi. Cosa facevi in Olanda? Allora, all'inizio ho lavorato per una multinazionale che seguiva vari progetti. Facevo supporto tecnico per i clienti italiani, quindi ho fatto 2 anni per LG Electronics, 1 anno e mezzo per Microsoft e 1 anno e mezzo per Adobe. Quindi supportavo i clienti italiani tecnicamente quando avevano dei problemi con i vari software o installazioni. Poi dopo non pochi anni, possiamo anche dirlo, decidi di tornare in Italia. Perché? Sì, allora sono tornato appunto a marzo di quest'anno. È stata una scelta un po' dura. La mia intenzione era stare via 2 anni in Olanda per fare, perché meno 2 anni per fare un'esperienza. Ne ho fatti 7, quindi ho detto vabbè, è anche il momento di tornare, anche un po' per motivi personali. Anche un po' perché nei miei progetti mi serviva anche un po' parlare la stessa lingua con le persone con cui avevo a che fare. Lì in Olanda l'olandese l'avevo studiato, ma poi un po' lasciato per darmi di più all'inglese. E quindi sono ritornato, però sì, c'è sempre la possibilità di ripartire comunque. Tu sei tornato con un tuo progetto di startup, spieghiamolo. Sì, esatto. Allora, io già dall'Olanda ho iniziato, ho detto, se torno in Italia bisogna che mi inventi un lavoro, perché trovare un lavoro è già difficile, anche alla mia età ancora di più. E quindi ho creato un sito dove i piccoli produttori possono registrarsi per vendere i loro prodotti in tutto il mondo. Si chiama Food Genuine, foodgenuine.com. Adesso sono ritornato qui in Italia e lo sto ancora sviluppando. Cioè, il sito è già online, però c'è sempre da lavorare. Andiamo a vedere insieme, Paolo, il ritorno, l'accoglienza, se vogliamo, il feedback dall'Italia, sia dal punto di vista personale che professionale. Partiamo proprio da quello professionale. È un paese per giovani imprenditori che fanno startup? Purtroppo devo dire di no. Ho trovato molte porte chiuse per vari paletti, perché una startup deve per ottenere dei finanziamenti dagli investitori deve passare attraverso degli incubatori o acceleratori. E per accedere a questi incubatori e acceleratori ognuno ha i propri paletti. Non è un'idea innovativa, bisogna che siate più di una persona, bisogna che ci sia un laureato e così via. E quindi sto guardando anche di appoggiarmi a degli incubatori e acceleratori al di fuori dell'Italia. E più in generale invece, che Italia hai trovato? Io dico sempre che i miei amici, l'Italia è 15 anni indietro rispetto all'Olanda, dove ho vissuto. Ho trovato sempre i soliti problemi, la solita burocrazia. Anche con l'informatizzazione e la connessione internet pensavo che qualcosa potesse cambiare, invece la burocrazia è come un virus. Sono tornato anche per cambiare l'Italia, ecco, dai. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Gran Bretagna. Andiamo dunque a curiosare nella prima meta di emigrazione giovanile italiana dopo i disastri, così potremmo dire, della Brexit, e ne approfittiamo anche per raccontarvi una storia di startup under 40 tricolore. Nome: Simone. Cognome: Luciani. Età: 33. Città di origine: Potenza Picena, Macerata. Studi: laurea in Internet Marketing. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2005. Per andare dove? Londra. Perché? Per studiare. Quale lavoro svolge attualmente? Imprenditore. Dove? A Londra. Tornerai? Non a breve. Mind the gap. Please leave the train. Please note that this train will not stop at the next station. In Italia avrei fatto molta più fatica a costruire quello che ho fatto qui a Londra. In questo paese esiste una cosa da noi dimenticata, la meritocrazia. Per non parlare delle differenze di burocrazia, ci scrivi. Simone, partiamo appunto da quanto ci hai inviato a giovanitalenti@radio24.it. Per farla breve, ti chiedo, cos'è la meritocrazia? Ce la spieghi in pochi efficaci concetti? Ma guarda, ti faccio un esempio di quando ho iniziato a lavorare per la prima volta a Londra. Mentre frequentavo ancora l'università, sono riuscito ad entrare in una prestigiosa azienda internazionale nell'ambito dell'e-commerce, e durante il primo anno sono passato dalla posizione iniziale da stagista fino ad avere ad un team da gestire di ben 4 persone. Senza conoscere nessuno, semplicemente sulla base delle tue capacità. Esatto, da stagista a project manager in meno di 12 mesi, non è e male. Da straniero italiano appena arrivato a Londra. Questo per me è meritocrazia. Assolutamente chiaro. La tua è una storia particolare perché tu a Londra ci vai ben presto, nel 2005 ti trasferisci per studiare. E perché hai scartato la strada dell'università italiana? Guarda, purtroppo non trovavo semplicemente quello che stavo cercando. Sono da sempre appassionato della rete, dopo le superiori sapevo già che avrei voluto avere una mia web agency o comunque lavorare in questo settore. Cercavo qualcosa che mi potesse insegnare a diventare un buon professionista del web, ma non trovavo nulla. E quindi cosa hai scelto per iniziare la tua carriera di studi oltre Manica? Che facoltà? Ho, ho stato un college, il London College, che aveva appunto una facoltà di internet marketing. L'università britannica è totalmente diversa da quella italiana, è molto più focalizzata sulla professione finale, rifletti. Come si esplicita questo pragmatismo negli studi? Sì, è effettivamente è molto diversa da quella italiana, si tende molto a lavorare su progetti concreti e a basare gran parte della teoria su dei casi studio reali. Il lavoro di squadra è sempre presente e quindi è spesso privilegiato rispetto all'individualità, e secondo me i moduli sono molto più studiati per insegnare effettivamente la professione e accelerare. Simone, però molti protagonisti qui a Giovani Talenti hanno sottolineato l'importanza di una buona base teorica che i nostri atenei, proprio perché più nozionistici, impartiscono, a differenza di quelli anglosassoni, è così? Non penso che un italiano in genere ha un bagaglio culturale un pochettino più ampio rispetto a un britannico, ma penso che questa differenza nasca dalle superiori e dalle scuole medie soprattutto, non dall'università. Inizia a studiare il mondo dei motori di ricerca internet, ti laurei e successivamente consegui un master in digital marketing. In Italia purtroppo non esisteva nulla di lontanamente simile, a noti. Siamo ancora così indietro nel mondo web, Simone? No, per fortuna no, la situazione è nettamente migliorata. Ovviamente il Regno Unito resta e resterà, secondo me, a lungo leader in Europa nella formazione nell'ambito digital marketing. Conclusi gli studi, lavori nel settore web. Allora, a posteriore, che ricordi hai di quelle esperienze, di quei primi lavori in Gran Bretagna? Ho dei ricordi bellissimi. Sono entrato in azienda subito molto bene, in un team molto inclusivo, amichevole, mi hanno fatto sentire a mio agio. Assolutamente una carriera, ho fatto carriera in poco tempo e questo è sicuramente un bel ricordo. E hai mai pensato di tornare in Italia per mettere in piedi qualcosa qui o lavorare qui? Ci ho pensato spesso, ho anche rifiutato proposte molto importanti da multinazionali, però è difficile lasciare una città come Londra cosmopolita, piena di energia. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Stufe e caldaie termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Simone Luciani, 33enne start-upper in Gran Bretagna. Simone studia direttamente oltre Manica, laureandosi e conseguendo un master. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, avvia una propria azienda innovativa nel mondo del marketing digitale, che in pochi anni è già stata premiata più volte. Insomma, all'estero sappiamo farci onore quando vogliamo, anche se stranieri. Questo avviene in un paese delle opportunità, come la Gran Bretagna. Domanda: sarà così anche dopo la Brexit? Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Nel 2010 sì. Opti per diventare freelance, lanci una prima startup, vinci un premio ma il business non parte, ti iscrivi allora a una scuola di startup londinese per rafforzare le tue competenze. Tre anni dopo, 2013, fondi RichClicks. Qual è l'idea alla base di RichClicks? Guarda, è un'agenzia di digital marketing innovativa, è una premier Google partner ed è nata da una voglia di cambiare il modo di fare consulenza digital. Dopo diversi anni a consulenti freelance, avevo visto parecchie realtà in cui lavoravo, ho incontrato il mio socio Simone Pastacantilli e abbiamo messo su questa agenzia che voleva rivoluzionare un po' il mondo del digital. La nostra visione è quella di assegnare un progetto a un consulente dedicato e questo di solito non avviene nelle agenzie normali. Nelle riflessioni che hai inviato a Giovani Talenti hai parlato anche del minor peso della burocrazia britannica nella creazione di impresa. Nel concreto, quali sono stati i requisiti base per lanciare la vostra startup? Guarda, se hai 30 sterline in tasca, un'idea, basta e avanza. Chiaro. Si può aprire un'azienda in veramente mezz'ora. Chiarissimo. In tre anni vi fate onore agli RAR Digital Awards, massimo riconoscimento europeo nel vostro settore, e arrivate quest'anno a conseguire il maggior numero di nominations vincendo due premi. Allora, cos'è oggi RichClicks? RichClicks è un'agenzia con un team estremamente affiatato, e questo si vede nei nostri progetti. Siamo appena stati inseriti tra le migliori 200 agenzie Google Partner nel mercato EMEA, che questo per me è una soddisfazione enorme, però siamo ancora un'agenzia che deve crescere. Se posso, io vedo RichClicks un po' come un bambino di 8 anni che si confronta con degli adulti e qualche volta vinciamo pesantemente. Questo è un po' come Davide contro Golia, praticamente. Sì. Cambiamo tema, se ti dico Brexit, a cosa pensi? La vedi come una minaccia per il tuo lavoro? Ci ho perso il sonno per una settimana almeno, però qui ti dico c'è una confusione enorme, perché proprio qualche giorno fa c'è stata la Corte Suprema che ha praticamente rimesso in discussione la possibilità del governo di dare l'ultimo voto alla Brexit praticamente. Quindi insomma tutto, molta incertezza sotto il cielo, però consiglieresti a un tuo amico di cercare opportunità professionale, di venire oggi in Gran Bretagna con tutte queste incertezze? Assolutamente sì, anche perché il fatto di fare un'esperienza in un mercato così competitivo come quello inglese ti tempra, ti stimola, ti insegna a lottare per raggiungere i tuoi desideri, secondo me è il posto ideale. E allora, domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Guarda, l'Italia è una nazione che ha tutto il necessario per tornare ad essere il paese in cui tutti sognano di vivere, e anche noi sogneremo di vivere. Quello che manca è il cambio di mentalità, ma sinceramente penso che le nuove generazioni stiano già facendo qualcosa per questo. Ho parecchi amici in Italia che si stanno mettendo in gioco e stanno ottenendo degli ottimi risultati, però vorrei vedere molta più meritocrazia nelle aziende, che secondo me manca tantissimo, vorrei vedere carriere più veloci e molto meno tasse sul lavoro, che penso che sia un po' il tema principale per gli imprenditori. Ci raggiungerà in linea Mauro Rossi, CEO dell'agenzia di pubblicità e marketing Well360, buon pomeriggio. Buongiorno. Mauro, tu che vivi da 20 anni immerso nel mondo della pubblicità e del marketing italiano, cosa consigli a un giovane che volesse intraprendere una carriera nel settore? Una bella esperienza professionale oltre manica può aiutare? Direi proprio di sì, perché comunque il mercato del lavoro italiano ha dei limiti, non c'è nulla da dire. Consiglieresti, come ha fatto Simone, di studiare anche il marketing in Gran Bretagna con una laurea? Partire da là, insomma. Ma allora, sul digital sicuramente, perché anche qui l'Italia è partita un po' in ritardo, anche se ritengo che comunque le scuole italiane danno comunque una visione più creativa, o diciamo così, un po' questo sentore, vedendo un po' dal Politecnico e da altre realtà che comunque già frequento. Simone lamenta l'eccessivo peso della burocrazia nella penisola e tu hai elaborato nell'email che hai inviato a Giovani Talenti un tuo personale tris di ricette per fare impresa in Italia. In breve ce le riassumi? Allora, sicuramente la burocrazia in Italia esiste, per cui diciamo il mio tris è essere veloci verso i clienti e semplici, cioè semplificare molti processi, lavorare molto sodo ed essere curiosi, e poi avere, diciamo così, una ricetta segreta. La mia è amare moltissimo il lavoro che faccio. Questo un po', se posso usarla condizione, come arma. Condizione imprescindibile, altrimenti senza passione. Che lavoro è? Infine, un consiglio ti chiedo a chi vuole restare a lavorare in Italia, e parlo sempre del settore del marketing digitale. Dove consiglieresti di guardare o cercare? Perché poi alla fine ci sono tanti giovani che magari vogliono restare qui. Ma allora, io credo che il marketing digitale in Italia non è ancora un mercato completamente maturo come all'estero, per cui ci sono ancora nelle aziende dirigenti che non lo conoscono bene. Sicuramente andrei all'estero e tornerei tra qualche anno, oppure proverei a lavorare in un'agenzia come la nostra. Voi assumete? Credendo. Ma noi da 3 anni siamo cresciuti, diciamo, 3 volte il numero dei dipendenti, adesso siamo così una 20. Quindi magari qualcuno potrà mandarti il curriculum, altrimenti, come hai detto tu, insomma, parafrasando Renzo Piano, andare per poi tornare. Grazie a Mauro Rossi, in bocca al lupo per la tua attività. E domanda di rito per Simone Luciani: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Guarda, ne ho uno principale: vai all'estero solo se hai voglia di adattarti. L'Italia non è da nessuna parte, questo ricordatelo perché è importantissimo. Ovunque andrai occorre spirito e sacrificio di adattamento. E se hai una valigia carica di sogni e voglio di fare, scegli il paese giusto e vedrai che puoi andare lontano. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Torna oggi anche l'appuntamento con l'Idogramma, osservatorio sulle opportunità in Cina. Emanuela Verrecchia ci racconta con la sua viva voce una delle numerose storie che potete leggere anche sul suo blog. Lo fa per tracciare un esempio concreto su come sia possibile approdare in Estremo Oriente e ci fornisce soprattutto qualche consiglio imprescindibile che lei stessa riassumerà alla fine di questa pillola. Protagonista della puntata di oggi Andrea Lavezzoli, 27 anni, una laurea a pieni voti in economia e finanza internazionale a Pavia, un Erasmus in Olanda e una prima decisiva tappa a Shanghai 2 anni fa per studiare cinese e fare uno stage presso la società che oggi lo ha assunto con un contratto di 3 anni, un'agenzia americana di marketing digitale che segue prevalentemente la Ford. In realtà in Italia Andrea avrebbe guadagnato leggermente di più, ma non aveva alcuna possibilità di crescita. Per 5 anni sarebbe rimasto allo stesso livello sia come salario che come responsabilità. Oggi invece Andrea ha un ruolo di team leader, la possibilità di crescita legata a risultati entro i primi 10 mesi dall'assunzione, e da Shanghai gestisce rapporti con Ford per seguire progetti digitali in India, Australia e Nuova Zelanda, quindi non lavora specificamente sulla Cina. Realizza siti internet e piattaforme digitali di supporto al marketing. Competenze quindi molto specifiche che Andrea ha in parte acquisito a Pavia seguendo un master in inglese di International Business, ma soprattutto competenze che ha consolidato durante lo stage fatto a Shanghai. Andrea non ha pagato per fare lo stage, ma ha percepito una piccola paghetta di 500 euro mensili e ha investito in un corso di cinese alla Hutong School di Shanghai, una scuola privata, che gli è costata 800 euro al mese, comprensivi di lezioni 3 volte a settimana, l'alloggio e il visto. È stato proprio questa scuola di lingue a suggerirgli alcune posizioni aperte per uno stage di 6 mesi e da quel punto in poi è stato lui che ha mandato il curriculum e ha fatto colloqui. Alcuni spunti dalla storia di Andrea che possono essere utili per i giovani in ascolto: cogliere l'opportunità dei Career Day, perché grazie ad un Career Day organizzato dall'Università di Pavia che Andrea ha conosciuto la scuola cinese che gli ha poi procurato lo stage. Sviluppare competenze specifiche in settori in cui c'è richiesta, il marketing digitale è senz'altro uno di questi. Dare una direzione internazionale ai propri studi. Dice Andrea che l'Erasmus in Olanda gli ha aperto la mente, il master in inglese di International Business seguito a Pavia è stato fondamentale per la sua formazione. E da ultimo la capacità di relazionarsi con gli altri. Avendo lasciato un buon ricordo durante lo stage di 2 anni prima, Andrea è stato richiamato a Shanghai per una posizione aperta. Per maggiori informazioni potete consultare il blog Cina di Frontiera all'interno del portale China Files. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internettivo. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e anche, perché no, denunce. Per mettervi in contatto con noi è molto semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare in onda. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi. giovanitalenti@radio24.it è questo l'indirizzo email a cui scriverci. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.